tranquilli, ci siamo. Amiche e amici di Blues Express, questa è la viva voce, viva mica tanto, dopo una settimana di influenza, porca miseria. In una botta solo mi sono perso le esibizioni della Rock FM All Stars Band, però avevo i miei giornalisti nascosti dietro ai lampioni, dietro alle colonne. Mi hanno detto che è stata una serata veramente bellissima, sperando che qualcuno abbia realizzato un CD live dal vivo. Amiche, sono qua, il Puma di Lambrate, cosa salva dallo stress, il buon vecchio Blues Express. Grazie a Max De Rio per i dischi di blues che ha trasmesso qualche minuto fa. A proseguire la carrellata di fenomeni e di amici che sono passati di qui per queste ultime puntate di Blues Express. Ecco qua, puntuale, estivo come sempre, Max De Bernardi. Ciao Max. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rock FM e un grazie ancora a Fabio per avermi invitato anche stavolta. Ma che ukulele hai lì? Una cosa incredibile. Ukulele concerto. Pazzesco. Guarda, l'altra settimana c'erano qua un contrabbasso, una chitarra, ma mai, e dico mai, avrei detto un ukulele in studio. Prima di passare all'ukulele, alla presentazione come si deve di Max De Bernardi, io ti regalerei, caro Max, questo brano di Roy Rogers, giusto per scaldare un po' l'atmosfera e per sistemare le questioni tecniche. Signori e signori, Valanghe, Avalanche, lui è Roy Rogers. Valanghe, Valanghe, Avalanche, penso che si pronunci così, dall'album Slideways, Roy Rogers, mamma mia, ti piace Roy? Sì, vabbè, sì, vabbè. C'è un bel tiro, L'ho anche incontrato e abbiamo fatto una sonatina. E vai! Diversi anni fa. Quindi Roy Rogers e Mighty Max. Da quanto tempo è che ti chiamano Mighty Max? Il termine fu coniato tanti anni più, sì, quasi una ventina d'anni fa da Andy Just. Che era l'attuale frontman della Ford Blues Band, che suonavamo assieme in questo tour, e pare sia tratto da un videogioco dove c'era questo Mighty Max. Anch'io quando ti incontravo la mattina presto in bicicletta a pedalare, ehi Mighty Max, dai, manda le ciance. Allora presentiamo lo strumento, io presento Mighty Max e tu presenti lo strumento. Allora Mighty Max è un chitarrista talentuoso che io conosco da tanti tanti anni e io sono lieto di presentare questo suo CD realizzato assieme all'amico suo e nostro Mauro Ferrarese. Sì. Un disco si chiama The Red Wine Tapes. E però prima di parlare del CD, per sciogliere, per farsi riconoscere da tutti, ci suona qualcosina con l'ukulele. Ok. L'ukulele è uno strumento, tra l'altro, che del blues magari non è molto conosciuto, ma si usava molto negli anni 20 e 30. Questo è un piccolo esempio. I'm going by the woman of the diamond ring, searching the night to shake that thing. I'm wild about loving, I'm crazy about loving, wild about loving. I like the way you shake that thing. When she shake it in the morning, baby, shake it at night. Every time she move it, I feel just right. I'm wild about loving, I'm crazy about loving, I'm wild about loving. I like the way you shake that thing. Qua ci vorrebbero degli applausi della gente, quella del blues, ma hai anche una bella magliettina, le cascate del Niguarda, porca miseria, ma quante ne sai, quante ne porti? Senti, gli applausi arrivano, arrivano. Grazie. Arrivano perché arrivano anche da lontano, quindi ci mettono un po' di tempo. Allora siamo qui a Blues Express, ospite in studio Mighty Max De Bernardi assieme al suo ukulele, assieme al suo ultimo CD realizzato con Mauro Ferrarese. Io non l'ho ancora scartato, quindi ci ascoltiamo un brano di un grande del blues, ladies and gentlemen. Sto parlando di, pensa che sto parlando di un artista che aveva smesso tempo fa, Sterling Harrison. Era famoso negli anni 60, faceva la classica musica black soul e ultimamente sono stati ristampati degli album, però questo è un brano recente, si chiama The House Where Nobody Lives, anzi no, ho scelto You Left the Water Running perché è un po' vagamente gospel e anche questo ce l'ascoltiamo. E se volete telefonate, scrivete al 335-100-7777 per i vostri sms. Ciao. You left all the water running when you left me behind, baby. You left all the water running, running from these eyes of mine, baby. You set off the light of love, you left with another guy. Honey, you turned off all your love for me, but you forgot to turn off the cry. Ooh, you forgot to turn off the cry. Honey, You Left the Water Running, bello, bello, Sterling Harrison, e devo ringraziare gli amici della Audio Globe perché mi hanno mandato un bellissimo pacco con dentro dei CD. E a proposito, quelli che mi dicono dacci una discografia essenziale, consigliaci Puma un qualcosa di particolare, io vi consiglio di andare sul sito della Audio Globe e di andare a prendervi tutti i dischi di blues che sono presenti in questo catalogo, perché ci sono i, i padri del blues di una volta, e parlo di Johnny Hooker, Muddy Waters, Willie Dixon eccetera, e poi anche quelli abbastanza sconosciuti, quindi andate proprio sul sicuro. Dite sono un ascoltatore del Puma. Allora, sono arrivate una sfilza di SMS, tra cui anche lo squalo che vuole sapere come è fatto l'ukulele, scritto ukulele con scritto, la K. No, in verità è qui è sbagliato, perché com'è? Lui dice scritto giusto. No, no, è sbagliato. Perché è scritto con la K al posto dove lui ha messo la C, insomma. Allora, come è fatto l'ukulele? Avete in mente quelle chitarrine che si regalano ai bambini a Natale ripiene di caramelle? Esatto. Ecco, più o meno la, la grandezza è quella lì. Usava la Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo. Esatto. L'ukulele, esistono diversi tipi di ukulele, esatto. C'è quello tenore, sono quattro modelli, soprano quella, che è quello più piccolino, concerto che è questo leggermente più grande, il tenore che è un po' più grande ancora, il baritono che è una sorta di chitarra a quattro corde, è grosso quasi come una chitarra. Però la cosa incredibile è che questo ukulele nelle mani di Max sembra veramente un giochino, invece vengono fuori dei blues molto molto molto belli. Io rispondo a tutti gli altri, tra cui Walter da Firenze, Monsignor Fefo, Oste della Malora, il Bradipo, il Bradipo. Poi ha telefonato il ciclista Mario, ha telefonato anche da Casalmaggiore. Io devo, prima che mi dimentichi, devo fare gli auguri al nostro amico Gianni Ruggero, conosciuto come la Faina di Miregnano, perché è diventato papà, e quindi abbiamo un'ascoltatrice in più che saluto, Emma, Emma Ruggero, un bacione, e ci ascoltiamo dall'ultimo bel disco di Mauro Ferrarese e Mighty Max De Bernardi, questo brano famosissimo che abbiamo trasmesso diverse volte, Sitting on Top of the World, però una versione particolare, giusto? Sì. Perché? Assolutamente a caso. E vai, ciao. Sunny day, my baby darling left me. stando seduto sul tetto del mondo, mamma mia, vibrazioni e pelle d'oca, lo scrivono anche e dicono: mamma mia, quanto questo strumento mi fa sballare. E beh, sapessi noi, l'ukulele, uno degli strumenti più particolari, che non è il mandolino, non è il banjo, no, è l'ukulele. Il pezzo che abbiamo sentito era il mandolino. È uno strumento che sta addirittura sotto al giubbino. Esatto. Uno si presenta: lei dove va? Dove va? Ma io veramente devo suonare l'ukulele. È un morbo, è l'ukulele. Mamma una volta che ti ha preso l'ukulele, alla fine. Allora, Max De Bernardi, Mighty Max per gli amici, è qui anche per promuovere una serata molto importante. Sabato 17. Per gli abitanti tutto il settentrione d'Italia. Ma vogliono venire dalla Sicilia? Ma anche per il sud della Svizzera. Ma sì, per il sud della Svizzera. Siamo alla fiera di Osnago, io e Mauro Ferrarese, in compagnia del nostro amico Fabio con la Traverse Blues Band. E quindi, scusatemi, ma due grandi appuntamenti in uno. La fiera di Osnago la trovate perché uscite da Milano sulla tangenziale est, andate verso Vimercate, Osnago. Da Piazzale Loreto non sono più di 20 minuti, andando piano, perché voi dovete andare sempre piano. Fiera di Osnago, sabato 17, Marti Max De Bernardi e Mauro Ferrarese a seguire la TBB. E chi lo sa che magari c'è un bel bis acustico, però meglio non dire niente, no. non si dice niente, dai. Li lasciamo lì così. Adesso vi presentiamo questo brano che si chiama Voglio essere amato, I Want to Be Loved, e lui non poteva essere che Mississippi Muddy Waters, il nostro grande padre. E vi voglio dire anche un'altra cosa che forse non tutti sanno, ma che in occasione dell'ultima trasmissione di questo programma, lo so, mi viene da piangere, però devo far finta di niente, ho deciso di ospitare in studio la Traverse Blues Band, non l'ho mai fatto in 16 anni di trasmissioni, questa volta mi tolgo lo sfizio, quindi annunciate e fate sapere che lunedì 26 ci sarà la TBB, ospite del Puma di Lambrate qui a Rock FM. Ci ascoltiamo Mississippi Muddy Waters. Beh, queste versioni vecchie, eravamo negli anni 50, Muddy Waters, da un album The Essential Collection, cioè da Gamma Mojo Working, Long Distance Call, a Manish Boy, cioè consiglio. Ultimamente molti mi hanno scritto chiedendo delle discografie reperibili, essenziali. Io vi consiglio Muddy Waters, The Essential Collection, per una delle tante etichette che distribuiscono Muddy Waters. E devo anche rispondere a un amico di un gruppo blues di Genova, gli All Around, che saluto, e mi chiedono di dare degli aiuti per delle agenzie di blues. Allora, cari amici che ascoltate Life in Blues, il blues, proprio come storia, come tradizione, non ha delle agenzie. Il miglior agente è il gruppo. Sei sempre te. È il gruppo, è il bassista, il cantante, il chitarrista, che si sbattono per trovare dei locali o delle situazioni. Diciamo che esistono, no? Delle agenzie di blues, però sono molto poche, e soprattutto si dedicano al lavoro per portare degli artisti americani. Allora qua dovremmo aprire un parentesi grosso. Però è così, la realtà è questa: non esistono delle agenzie, soprattutto delle agenzie che promuovono dei gruppi emergenti che magari non hanno fatto neanche un CD. Ovvio, almeno per quelli che hanno già fatto, che hanno già del materiale, direi che la cosa migliore è sempre quella di rivolgersi sia a queste agenzie, mandare il proprio materiale. E poi di lavorare molto su questo nuovo mezzo informatico che è il computer, esatto. Quindi con MySpace, YouTube, i siti. A proposito di siti, se vuoi dare il tuo, sì, o comunque. Io ho un sito come tantissimi ormai su MySpace, che è myspace.com/MaxDeBernardi, e quindi ci trovate la musica, e ci trovate la musica del mio ultimo CD da solo, che si chiama Can You Keep On Moving, che è già uscito ed è in distribuzione da me medesimo e basta. E questo proprio a testimonianza che anche Max De Bernardi, lui ha suonato da anni, suona in giro con gruppi prestigiosi, ospite, però è lui che lavora per la sua attività, perché è così, il blues è una musica che non è la musica che si ascolta in televisione, è una musica non di nicchia, però è una musica che obbliga il musicista a sbattersi lui in prima persona. Esatto. E quindi dateci dentro, suonate, ma quando dico suonate dappertutto, suonate nelle scuole, negli oratori, esatto, nei centri sociali, in strada, in metropolitana, giusto per farsi conoscere, ok? Esatto. Dateci dentro, Keep On Blues, in blues alle masse. Adesso ci ascoltiamo il brano numero, ve lo dico subito, ce l'avevo scritto qua, che numero è? Il numero 9, Apple Tree Swing, però dovete pazientare qualche istante perché è in arrivo la mitica e gloriosa pubblicità di Rock FM.